Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, la mostra per raccontare la giornata dei risvegli per la ricerca sul coma, il nuovo documento di programmazione per il piano regionale delle acque, i question time in tema di alluvione, sanità, sport e risorse idriche, la nuova legge regionale a sostegno degli esercizi commerciali. È giunta la 25esima edizione la giornata dei risvegli per la ricerca sul coma e una mostra visitabile in questi giorni in assemblea ne documenta la storia attraverso gli spot e i manifesti ideati in questo quarto di secolo con il volto e le espressioni di Alessandro Bergonzoni, che ne è da sempre il testimonial. Sentiamo la presidente dell'assemblea, Emma Petitti. Immagini e video che raccontano questi 25 anni di impegno sociale vicino alle persone e alle famiglie. Congiungi vite per non vedere opaco racconta le campagne sociali per sostenere il progetto dell'Associazione Amici di Luca, nata nel 1997 per provvedere alle cure necessarie per svegliare Luca, ragazzo bolognese di 15 anni, rimasto in coma per 240 giorni. Dopo la sua scomparsa, l'anno successivo, l'associazione ha fondato la Casa dei Risvegli, intitolata a Luca De Nigris, una struttura dell'ospedale Bellaria di Bologna, unica nel suo genere, dedicata alla riabilitazione. Passiamo ai question time. Nell'ultima seduta di consiglio, Stefania Bondavalli, della lista Bonaccini, ha sollecitato l'intervento della Giunta dopo il caso che ha riguardato una società sportiva di Reggio Emilia. A seguito del cambio della normativa e delle procedure, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha negato il tesseramento di 8 bambini stranieri di paesi extra Unione Europea appartenenti alla squadra con la quale la stessa società intendeva partecipare al campionato della categoria esordienti. Sentiamo Bondavalli. Dobbiamo fare di tutto affinché quello che è accaduto ad una società sportiva di Reggio Emilia possa non ripetersi per quello che riguarda altre società sportive e dunque facilitare il più possibile, anche rispetto al cambiamento di queste normative, la comunicazione con le società sportive perché i ragazzi stranieri possano non trovare difficoltà ad iscriversi a fare attività sportiva che sappiamo essere davvero importante anche per quello che riguarda l'inclusione e l'integrazione. Fabio Rainieri della Lega, nella sua interrogazione, firmata assieme al collega di gruppo Stefano Bargi, ha puntato il dito sui disservizi del progetto Sole, la rete regionale dedicata alla sanità online a disposizione dei medici di famiglia e dei pediatri. In risposta, il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha parlato di alcune segnalazioni in agosto e a settembre, giunte in modo sporadico. Oggi, ha detto, la situazione è stabile. Sentiamo il commento del consigliere Rainieri. La risposta della Giunta è stata abbastanza vaga, nel senso che loro hanno chiaramente difeso il progetto Sole, ma ancora oggi ci sono dei problemi seri per gli utenti. E quindi è una risposta ancora molto vaga sulla quale noi continueremo a vigilare e faremo tutto ciò che è possibile perché i medici ma anche i pazienti abbiano quel servizio che gli spetta di diritto. Cambiamo argomento. Meno dispersione idrica, più attenzione per contrastare l'inquinamento delle falde e maggiore cura dell'alveo dei fiumi, a partire dal Po. L'Assemblea Legislativa ha approvato le linee guida presentate dalla vicepresidente assessora all'ambiente della Regione, Irene Priolo. Il nuovo piano della tutela dell'acqua prevede anche la realizzazione di invasi, politiche per il risparmio idrico e interventi sulle tubature per evitare lo spreco di acqua oltre alla bonifica dei terreni. Si rinnova così l'impegno dell'Emilia Romagna per il risparmio energetico e per combattere il cambiamento climatico. Sentiamo Marco Fabbri del Partito Democratico. Una sfida sicuramente importante che ci vedrà coinvolto nei prossimi anni e che vede mettere al centro tutte le comunità emiliano-romagnole e le attività economiche. Tra i macro obiettivi c'è la necessità di avere disponibilità di acqua, anche di fronte alla carenza di pioggia, e soprattutto avere acqua pulita e sicura. Ecco la posizione di Emiliano Occhi della Lega. Ma è un piano sicuramente molto ambizioso, per il momento solo a livello programmatico. Principalmente da migliorare c'è il rapporto col mondo agricolo e col mondo delle infrastrutture e dell'industria. Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle interviene sul riciclo delle acque reflue. Sentiamola. Su questo la Regione deve fare molto di più, perché sappiamo che alti prelievi significa anche un depauperamento appunto appunto della qualità delle acque. Per Europa Verde bisogna puntare sui piccoli invasi piuttosto che su quelli di dimensioni maggiori, vista la scarsità di piogge. Le parole della capogruppo Silvia Zamboni. Questo piano di tutela delle acque è veramente ben strutturato. Naturalmente c'è un punto interrogativo alla voce programmazione di nuovi invasi, perché è inutile fare questi mega bacini. Se parliamo di piccoli invasi distribuiti, allora ok, anche su quello. E di corsi d'acqua in vasi si è parlato in aula anche nel corso dei Question Time. Manuela Rontini, del Partito Democratico, ha chiesto un aggiornamento sugli interventi e le richieste avanzate dalla Regione alla struttura commissariale per rimettere in sicurezza la Romagna dopo l'alluvione di maggio. In particolare ha chiesto attenzione per i fiumi che attraversano il territorio pedecollinare montano a monte della Via Emilia. Sentiamo il commento di Rontini dopo la risposta fornita dall'assessora Irene Priolo. A nord dell'asse della Via Emilia, sui torrenti e rii minori, ad intervenire sarà il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con 20 milioni di euro di risorse aggiuntive sui 240 in tutto messi a disposizione ad ora. Resta un punto: sarebbe opportuno che alla struttura commissariale venissero dati poteri dal Governo nazionale per poter intervenire in deroga al Regio Decreto che regola la materia, perché è una legge troppo obsoleta. Giancarlo Tagliaferri, di Fratelli d'Italia, ha invece portato l'attenzione sulle necessità di acqua del territorio piacentino e chiesto alla Regione se intenda intervenire per ridefinire l'apporto idrico proveniente dal bacino del Brugneto che si trova in territorio ligure. L'accordo con la Liguria del 2020, ha risposto l'assessore Irene Priolo, ha 5 anni di validità e prevede anche il rilascio straordinario di quantità di acqua in caso di emergenza dovuta alla scarsità di piogge. Tagliaferri si è dichiarato insoddisfatto della risposta. Sentiamolo. La Regione Emilia-Romagna si è fatta carico dello smaltimento di rifiuti che provengono dalla Liguria. In cambio noi chiediamo più acqua per il nostro territorio piacentino. E vogliamo anche che non vi sia ambiguità, vogliamo risposte certe, vogliamo concretezza. Non come l'atteggiamento ambiguo della sindaca attuale Tarasconi, che da consigliere regionale chiedeva più acqua e ora invece tace. E ora parliamo di commercio. Una nuova legge di settore prevede oltre 18 milioni di euro a sostegno degli esercizi che si trovano sia nei centri storici che nelle grandi periferie urbane. Grazie a queste risorse verranno riqualificati negozi, botteghe, bar e locali pubblici in tutta la regione, sostenendo così anche le attività delle città di piccole e medie dimensioni e quelle dei comuni delle aree interne. I fondi serviranno per l'acquisto di nuove attrezzature, per rinnovare i locali e per la digitalizzazione delle imprese. La nuova norma sostituisce quella varata 25 anni fa, mettendo oggi al centro le attività di vicinato per puntare a rigenerare il tessuto cittadino, messo a dura prova dall'economia online. Un nuovo approccio che si dipana attraverso la creazione di spazi polifunzionali, in cui verranno ospitate attività come bar, ristoranti, negozi e sale da affittare, i cosiddetti hub urbani. I comuni dovranno presentare progetti indicando zone specifiche da riqualificare, pensando all'accessibilità, alla mobilità e al carico-scarico merci, alla sostenibilità ambientale, all'integrazione delle risorse sul territorio e alle nuove tecnologie. Il tutto senza consumo di nuovo suolo. La Regione valuterà e finanzierà i progetti che saranno attuati sempre dai comuni, puntando a una gestione condivisa tra pubblico e privato. Sentiamo Marcella Zapaterra del Partito Democratico. Abbiamo fatto una nuova norma che dà una visione completamente diversa e integra gli esercizi commerciali, il settore del commercio nell'economia urbana delle città, integrandola con le politiche di accessibilità, di sostenibilità. Oggi occuparsi di rilanciare il settore commerciale vuol dire occuparsi anche di posizionamento marketing, di digitalizzazione, di nuovi modelli di organizzazione, di ricambio generazionale. La legge è stata approvata senza voti contrari. L'Assemblea legislativa ha dato inoltre il via libera a diversi ordini del giorno. Tra questi uno del Partito Democratico sollecita interventi a sostegno anche di tipologie commerciali non comprese nella nuova norma, mentre un altro, di Forza Italia, sollecita canoni concordati per gli immobili commerciali, come spiega la capogruppo Valentina Castaldini. Ho cercato di fare un lavoro serio, ascoltando le categorie e gli assessori al commercio che si occupano tutti i giorni di problemi come le saracinesche abbassate. Sono state approvate 5 emendamenti, io mi ritengo molto soddisfatta, ma ritengo che l'impianto fosse già un impianto buono. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.mr.it. Grazie per essere stati in ascolto e a risentirci su queste stesse frequenze.